Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, ci siamo, sono ritornato. Eccoti, bentornato, un abbraccio da parte mia e da parte di tutti. Grazie. Sai che te l'abbiamo mandati tantissimi e devo dire un pubblico. Hanno fatto tutti bene. Allora, oggi devo dirti la verità, il 12 settembre, sì, è il nome di Maria, ma c'è un santo che per me, nella mia devozione e in quella di alcuni milioni di italiani minoritari, è il santo del giorno, della settimana, del mese, forse dell'anno. Pensa, oggi si celebra Sant'Autonomo, che esiste davvero. Martire in Bitinia sotto Diocleziano. Sant'Autonomo fu martirizzato. Pare che nel martirologio la lorica, la corazza dei medici Diocleziano avesse una piccola targhetta dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Sant'Autonomo che all'epoca si chiamava? Si chiamava Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate. E la Orlandi era già allora alla testa di Soprattutto ironizzare sull'età di una signora non si fa. No, ma perché il potere dello Stato e del fisco è eterno. Per questo voglio dire, figurati, lei sarebbe la prima felice, lei confermerebbe che sotto Diocleziano emanava già circolari. Ma detto questo, comunque non sto scherzando, oggi davvero tra i tanti altri santi, Cronide, Leoncio, Serapione, c'è Sant'Autonomo. Quindi, cari sofferenti contribuenti, sappiate, cari autonomi oggi, che c'è uno a cui le preci, quando bisogna, arrivano le contestazioni, Sant'Autonomo. E il Sole 24 Ore, in versi o meno, devo dire che oggi i versi del della rassegna stampa erano straordinari, ma devo dire in versi o in prosa dedichino qualche pagina a Sant'Autonomo. Beh sì, il nostro Mauro Meazza è stato venuto il vate del lunedì. Il vate del lunedì. Devo dire che riesce a trarre ispirazione anche dalle più arde delle materie. Esatto. Oggi compiono gli anni Paola Turci e Elisabetta Canalis. Ti riempirà di gioia. Io ti dirò che il mio massimo auspicio è che io e te siamo una coppia indivisibile come i due gemelli omozigoti di Massa Carrara di cui avrei letto sulla stampa. Che hanno compiuto quanto? 101 anni. Roberto Tozzi, detto Gino, e fratello Innocente, che c'erano questa meravigliosa foto in due in 500, perché gli hanno rinnovato la patente. No, scritto così, gli hanno rinnovata per due ma anni. Ma non si può rinnovare la patente a uno di 100 anni. Ma anch'io, infatti, te lo riporto notizia, gli hanno rinnovata per altri due anni. Dice il segreto: vino e pasta asciutta. Sì, certo, vino e pasta asciutta. Ma come possiamo mettere un limite? Vabbè, non c'entra niente, però mi hai fatto suscitare questa cosa. Ma dopo gli 80 anni, 85, ecco. Basta, c'era già Margherita Hack che fece una polemica, no, 90 aspetta, anni. Pensaci bene sul numero di anni che decidi, visto che Berlusconi si vuole ricandidare alle elezioni. Forse devi alzarlo. Cosa c'entra? Ma Berlusconi non guida da anni, dai, sta dietro. Allora, oggi, caro Oscar, parleremo di scuola. Sicuramente sì. Ci stanno ascoltando, io so già, molte mamme, soprattutto mamme, devo dire, ma anche molti papà. Vabbè, dai, la maggior parte sono mamme che stanno portando i bambini, i ragazzi a scuola. Qualcuno sa che dovrà anche ritirarli, perché c'è una preside delle scuole medie che ha detto vanno anche ritirati. Perché oramai capisci, questo paese non per i giovani, siccome si resta giovani fino a 40 anni, giustamente a scuola media bisogna adottare i criteri che vanno per l'asilo nido. Quindi sì, più o meno. Sì. Esatto, siamo un popolo di bamboccioni. Esatto. E allora, cari genitori, ritirate anche alle medie, ritirate come dei pacchi i vostri figli. E portate un ciuccio alla preside, però. Un ciuccio alla preside. Parleremo di scuola, parleremo anche del caso Roma, ancora le questioni politiche. Voi chiamateci all'800 24 00 24. Non parliamo di calcio, caro Oscar. Quest'anno noi abbiamo fatto già il record. Al 12 settembre già la nostra stagione è finita. Credo il record mondiale. Ma posso dire la vostra mondiale. Se intendi rossoneri, rossoneri. Ma credo che sia un problema generale di questo campionato. Ma non lo so. Sì, penso anch'io che vincerà ancora la Juve. Ma altre squadre lotteranno. Se Totti fa quei lanci, magari. Esatto. Non le nostre, comunque. Non le nostre. Mi pare ecco, difficile, cioè, questo esordio di questo nuovo portiere del Torino ha lasciato tutti un po' freddi, per così dire, vabbè, comunque. Va bene, sul tema della scuola, visto che con noi c'è il sottosegretario Davide Faraone, che salutiamo, sottosegretario dell'istruzione, buongiorno, buongiorno e benvenuto, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Vorrei subito chiedere a Oscar qual è la criticità secondo te, perché sai che dobbiamo subito criticare. No, noi non dobbiamo criticare, però dobbiamo nel giorno in cui si inaugura l'anno... E ricordare un po', come tutti gli altri strumenti di informazione e così via, che qualche problemino c'è. Noi abbiamo un giornale di riferimento, perché tu hai sentito anche la rassegna, io condivido la stampa di oggi nelle sue due pagine, però tutti quanti, e quindi cominciamo a chiedere al sottosegretario Faraone: vi aspettavate quello che sta succedendo al concorsone, cioè tra alcune centinaia di commissioni in ritardo e la percentuale di respinti agli iscritti, insomma, elevate entrambe le cose, e quindi moltissimi posti che restano ancora non coperti? Una delle principali polemiche dell'inizio anno è: ci saranno ancora troppi supplenti, le cattedre bandite non verranno coperte, chi dice 10, chi dice 20, chi dice 30.000, lei che ci può dire, sottosegretario? Ma io posso dire che abbiamo fatto un'operazione che ha coinvolto migliaia e migliaia di insegnanti precari e molti che sono diventati di ruolo, già oggi 120.000, e con un piano che prevede a regime 180.000 assunzioni in ruolo. E abbiamo rispettato la tabella di marcia, i numeri ci sono, nel senso che ricordo quando annunciamo questo piano di assunzioni tutti dicevano che non si sarebbe mai raggiunto il risultato di una mole così grande di assunzioni in così poco tempo. Invece la tabella di marcia sta funzionando, è chiaro che quando metti in campo un'operazione così grande ci sono dei fattori che sono imponderabili, ad esempio il concorso. Quanti partecipavano lo sapevamo, perché potevano partecipare soltanto gli abilitati, quanto lo vincevano non potevamo saperlo. E quindi è chiaro che il primo anno è stato l'anno delle assunzioni da GAE, e quindi dalle graduatorie a esaurimento, e quindi quelli c'erano. Il secondo è stato l'anno del concorso, vedremo quanti ne assumeremo con il concorso. Il prossimo anno sarà l'anno in cui andremo al regime, perché sì, riusciremo a fare un equilibrio fra quello che abbiamo assunto e quello che manca. Però, sottosegretario, quante sono le cattedre scoperte? Cioè, c'è già una cifra, la CISL dice che fino al 40%, soprattutto al nord, di cattedre potrebbero essere scoperte in questo inizio di anno. Voi avete una cifra ufficiale? No, le cifre ufficiali le avremo fra qualche giorno, quando avremo completato il percorso di mobilità, di assegnazioni fatte nelle cattedre, soprattutto nel mezzogiorno, quindi cifra ufficiale fra un po'. Sicuramente saranno numeri molto più piccoli rispetto al 40%, e sicuramente l'anno scolastico comincerà regolarmente con gli insegnanti e con tutto a posto, per cui voglio anche rassicurare le mamme e i papà che ci ascoltano. Questo sì. Poi dopo lo sa che poi quando vanno a scuola magari le scoprono le magagne. Ma vabbè, ma un sistema perfetto non c'è. E sui presidi invece? Ci sono presidi che gestiscono tre istituti. I presidi anche qui abbiamo... Quando le assunzioni nuove? Le assunzioni si faranno ad anno... il prossimo anno si farà il concorso per i presidi, per farli andare a scuola ad inizio del prossimo anno scolastico. Quindi noi contiamo ad inizio del prossimo anno scolastico di coprire quelle scuole dove in questo momento ci sono dei presidi che praticano delle reggenze. Abbiamo già le risorse, il concorso si bandirà, è già stato fatto il decreto da parte del ministro. La cosa bella è che questa volta selezioneremo i dirigenti scolastici, oltre con le modalità tradizionali, anche con dei tirocini che faranno direttamente a scuola, in modo che non ci saranno presidi catapultati nelle scuole con una prima esperienza ed un primo giorno, ma con presidi che hanno già fatto esperienza a scuola durante la formazione, durante anche la selezione. Sottosegretario, però sull'algoritmo che presiedeva all'assegnazione Nord-Sud, uno dei classici temi delle proteste, visto che poi la maggioranza di coloro che ambiscono la regolarizzazione vengono dal Sud e naturalmente più delle cattedre scoperte sta al Nord, però la missione dolorosa che il Ministero ha dovuto fare ad agosto, che l'errore c'era, secondo voi e secondo le vostre prime impressioni, conferma che ci saranno una marea di impugnative per quello oppure no? No, assolutamente, nel senso che tutti gli errori puntuali che ci sono, ripeto, migliaia di assunzioni, qualche errore ci può stare, su tutti questi errori noi faremo le conciliazioni, e laddove non si riuscirà a trovare una conciliazione fra la scuola e l'insegnante, ci sarà chi farà ricorsi. ma stiamo parlando veramente di un numero fisiologico che può esserci quando si fanno operazioni così grandi. Per il resto tutto sta funzionando benissimo. Poi naturalmente quelle percentuali a cui faceva riferimento lei, e cioè 80% di insegnanti precari sono insegnanti del sud, 20% del nord, considerando che gli studenti dal nord al sud non li possiamo portare, è chiaro che dobbiamo riuscire anche a far funzionare questa modalità delle assunzioni e dei trasferimenti. Senta, sottosegretario, la vicenda che noi abbiamo accennato di questa preside, ma pare che non sia l'unica a Bergamo. Un ascoltatore prima in rassegna stampa mi ha detto in un'altra scuola di Bergamo succede, ma che ha detto i genitori vengano a ritirarsi i bambini, i ragazzini, insomma, delle scuole medie, perché sono già ragazzini che se vedono i genitori all'uscita si arrabbiano e si offendono. Ha fatto bene? Fa bene questa preside? Sottosegretario, non c'è più. Eccoci, è caduta la linea. Non lo sapremo mai se va bene. Secondo finito lo slot, per così dire. No, lo so, però ci chiama Gianfranco da Roma. Non so che ha da dirci. Intanto recuperiamo Faraone per questa risposta. Gianfranco ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Sono un docente di scuola superiore. Sì. Volevo solo intervenire su un piccolo punto, ce ne sarebbero moltissimi. La percentuale di bocciati al concorso. Concorsone, sì. Io ho fatto il concorso del 2000, quindi tutt'altra storia. Sì. E il problema è che il Ministero ha previsto di pagare i commissari una cifra ridicola, cioè 2 euro, 2,50 euro l'ora, sì. Si è fatto il calcolo complessivo. Poi a un certo punto in corso d'opera ha raddoppiato addirittura il compenso. È una mossa che rivela proprio che erano partiti con cifre ridicole e comunque non ci si sono allontanati. Per cui alla fine moltissime persone di qualità, o comunque diciamo abili a fare i commissari, non si sono presentate. Sì. Il Ministero ha raschiato il fondo del barile, candidato perfino inserendo in commissioni d'esame anche persone non abilitate, cioè esperti di provata competenza, una dizione di questo genere. Per cui l'alta percentuale di bocciati, purtroppo, ricordo che il concorso era riservato ad abilitati, sì, quindi avevano fatto un percorso selettivo. Deriva dal fatto che i commissari non erano all'altezza, molti. Purtroppo sì, e sempre perché si fanno grandi proclami e poi quando si tratta di riconoscere, come dire, il valore del lavoro intellettuale, nello specifico di quello dei docenti. Però Gianfranco, questo significa, significa che abilitati non all'altezza, dice lei, hanno bocciato abilitati che malgrado la bocciatura avranno la cattedra, sì, perché rimangono nelle graduatorie. Lei capisce Gianfranco che per le famiglie sentir dire che le commissioni erano abilitati ma non all'altezza e che i bocciati non all'altezza, ma comunque bocciati qui non all'altezza, li troviamo in cattedra per i nostri figli, è una descrizione che sembra Ciccio e Franco, ecco, posso dire, purtroppo sì, poco da ridere. Succederà, cioè potrebbe succedere, no, succede sicuro. E succede in alcuni casi, caro Gianfranco, cioè ci saranno persone che sono state bocciate, ma siccome ci sono cattedre da coprire, le persone si pesca dalle graduatorie, pesca dove c'erano gli abilitati. E quindi persone che di fatto sono state bocciate al concorsone potrebbero in questo momento insegnare e possono insegnare ai nostri figli. Questo è un altro paradosso. Caro Oscar, qui Davide Faraone non prende più il cellulare. Questa è la comunicazione. Quindi rimarremo un impegno, con questo dubbio. Questo tu se ti venivano a prendere alle medie, i genitori? A scuola elementare andavo da solo. Vabbè, ma dai, elementare, cioè, questo è un abbandono di bambino. No, ci andavo da solo, però è così e penso che sia un bene. Vabbè, erano anche altri tempi. Forse c'era un po' più sei vicino che c'erano le vetture a cavalli, sì, no. C'erano le vetture a cavalli per le strade, no, anche mio papà mi accompagnava non proprio fino sotto la scuola. Io sono dell'idea di su questo dare insomma si impara anche su queste cose qua, naturalmente con un controllo, non è che da un giorno all'altro a 5 anni ci vai a scuola da solo, però non mi sembra una misura opportuna. Ma no, io infatti abbiamo deciso, però, che sai quest'anno cosa rispecchia il fatto che oramai si considerano tutti ragazzini fino a età improbabile nel nostro paese. Ma l'assunzione, guarda, io di responsabilità, quest'anno abbiamo applicato, mia figlia più grande va in quinta elementare, ci sarà il primo esperimento di vai a scuola da sola, naturalmente dopo aver verificato x volte, sì, però io considero dopo questo dopo aver preso come opportuni controlli che non dico in radio perché sennò magari mi ascolta e li elude ma diciamo verrà fatta questa prova, questo però è giusto che sia così. È giusto che ma sia. Ma pare che in 13 anni, in terza media, papà e mamma prendono. Ma, no, ma peraltro, secondo me, i più arrabbiati in tutto questo saranno proprio loro, i figli, cioè che vedono, mamma, che palle, anche fuori dall'uscita. No, è ovvio, cioè, figurati. Però. Vabbè, questo ho deciso di fare questa presa. Va bene, dai, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi parleremo ancora di scuola se volete, parleremo del caso di Roma e di tante altre tematiche, fino alle 9:30. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. 24 mattino, attenti a noi due. Caro Oscar, il nostro Giuseppe da Garenzano ci scrive che sua figlia a Copenaghen per l'Erasmus è la sua scuola di un altro pianeta rispetto al nostro terzo mondo. Vabbè. Vabbè, è stato Copenaghen. Gentile per dire un altro pianeta, perché alcuni direbbero un altro universo. Un altro universo. Ma sai quanti ci stanno scrivendo sulla questione di accompagnare i bambini a scuola o ritirarli? Non mi stupisce, perché questo ti dà un classico carotaggio, come si fa per vedere cosa c'è nei terreni, per capire come cambia il rapporto tra genitori, figli, l'idea del controllo, quando gli si dà responsabilità. Quindi secondo me è un bene che ci... E moltissimi dicono, come dici tu, io all'elementare venivo mandato da solo, chi ha 8 anni, chi ha 6 anni, chi ha 9 anni, comunque magari, nessuno alle medie viene accompagnato o ritirato. Magari bisogna vedere quanti anni hanno, perché io sono ormai un vecchio, cioè io sto parlando degli anni 60, cioè, però all'epoca la durezza dell'impostazione educativa, nonché il principio di verificare quando al più presto possibile fare assumere delle responsabilità al bambino... era molto più ferreamente esercitato di oggi, che è tutto diluito in un mondo più ovattato, in cui si diluisce l'assunzione della responsabilità. Non do giudizi, mi limito a dire che questa è la mia impressione. Da padre, questa è la mia certezza, però vedendo che se provo a esercitare una cosa dura, ci sono 100 occhi che mi fulminano, dicendo come ti permetti? Quindi io sto sempre lì, buono. Comunque questa preside ha deciso così, e ripeto, non credo neanche sia l'unica. Ci chiama Guido da Bergamo, proprio la città dove questa preside ha deciso così. Guido, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a entrambi. Eccoci, buongiorno. Io volevo offrire un punto di vista leggermente diverso, perché abito a 50 metri da quella scuola. Sì. E parlo da... più da abitante della zona che da padre, perché mia figlia fa ancora l'elementare, quindi il problema è posticipato di qualche anno. E uno dei problemi è anche la sicurezza delle nostre strade. In quella scuola a fianco c'è un convento di cappuccini che fanno un'opera peraltro ottima di mensa dei poveri. Sì. Ogni tanto c'è da aver paura, sia a mezzogiorno sia soprattutto ovviamente la sera, ma quello è un altro discorso. Aver paura perché? Perché ci sono ovviamente la mensa dei poveri a fianco di persone dignitosissime, ci sono persone di cui... Lei ha paura? Un pochino, io personalmente no, ma penso che per un bambino possano potenzialmente essere pericolose. Io mi metto nei panni di quella preside e dice, vedo passare alcolizzati e gente del genere sotto, davanti alla porta della mia scuola... lasciare i bambini fuori così capisce un po' la preside. Un po' fastidio. Sì, per la verità la preside si è appellata a una legge che prevede entro fino ai 14 anni in quanto minore di 18 anni di 14 anni l'accompagnamento dei genitori. Ha fatto questa circolare, non ha citato questioni di sicurezza, ma una legge specifica. Però caro Guido, ma io che dovrei fare? Io vivo nella zona di Viale Padova a Milano, che per chi non la conoscesse è un po' considerata la Kashba, no? E c'è una scuola media dove forse mia figlia andrà lì l'anno prossimo. Cosa devo fare, secondo lei? Cioè, non dovrei vivere a Milano, non dovrei vivere lì per la questione di sicurezza? Cioè, per carità, Oscar, c'è un po' il senso di protezione estremo che è giusto, legittimo, ma a un certo punto... Non so, io dico che se c'è un problema però di sicurezza e di ordine pubblico, allora riguarda non quelli che stanno sopra e sotto una certa età, allora in quel caso l'autorità di pubblica sicurezza ci deve mettere i carabinieri se c'è un problema di questo tipo. Però non voglio sembrare invasivo, a me sembra coerente a una curva generale di diluizione dell'assunzione di responsabilità, perché in nome del principio della massima cautela, esatto, è meglio finché hanno 18 anni considerarli, insomma, non so. Poi c'è anche questo fatto che per legge la scuola è responsabile dell'incolumità dei ragazzi fino al loro ritorno a casa, e quindi non vorrei che la preside volesse in qualche modo anche cautelarsi. Di eventuali casini, un po' di pilatismo, Ponzio Pilatismo. Va bene. Ci chiama Simone da Lucca, buongiorno. Sì, Simone. Buongiorno. Chiamo esattamente a Borgamozzano. Mia moglie insegna alla scuola media di Borgamozzano e gli insegnanti sono, tra virgolette, obbligati ad attendere che i genitori vengano a prendere i bimbi. Questo perché a che scuole? Scuola media primaria, sì. Perché credo, questa è la mia interpretazione, perché il dirigente credo voglio evitare che se succede qualcosa ai bimbi fuori dalla scuola la famiglia poi faccia causa al dirigente. Vede la causa, perché appunto la scuola è responsabile finché il ragazzo, lo studente, la studentessa non arriva a casa. Ma non, credo che non sia la sola scuola nella provincia di Lucca, credo che ci siano anche altre scuole medie, intendo, che applichino la stessa regola. Ma io lo capisco, all'elementare è così, proprio ogni volta vengono individuati i genitori e vengono, ma alle medie sì. Invece si muove. Ma grazie, vede che poi Oscar non è neanche quindi una notizia epocale, cioè già succede. È la conferma del fatto che nell'ordinamento italiano ci sono non mille, ma un milione di milioni di norme che sono volte a creare problemi. Creare problemi, lo dico perché naturalmente per tutti la compatibilità con gli orari di lavoro, in questo caso io mi metto nella panne delle famiglie, e non è una cosa che automaticamente ti metta nelle condizioni di rispettare questa norma per la quale la scuola, cosa secondo me senza senso, è responsabile anche di ciò che avviene fuori dal suo perimetro. Primo. Secondo, qui stiamo parlando di una fascia d'età che non è quella ovviamente del primo ordine di scuole primarie, cioè stiamo parlando delle vecchie scuole medie. E ha davvero senso così? Cioè, voglio dire, guardiamoci come padri negli occhi, i vostri figli di 12-13 anni conducono la vita di bambini di 4-5 che già la conducono a 4-5 anni oggi, non come si conosceva 30 anni fa? La mia risposta è no, nel senso che li lasciate e sono liberi di fare molte più cose e hanno un senso di responsabilità che non voglio dire che sia maturamente compiuto, ma di certo c'è. Certo, sì. Ci chiama anche Matteo da Arezzo, buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. Allora, il mio intervento è relativo alla selezione degli insegnanti. Io sono fidanzato con una ragazza che aspira a diventare la prossima insegnante e lei ha fatto, non ha passato l'abilitazione, quindi secondo i nuovi criteri non potrebbe insegnare. Per fortuna l'anno scorso ha avuto la possibilità di avere una cattedra come supplente. È stata una fortuna per lei perché ha avuto modo di mettersi alla prova, ma soprattutto per i ragazzi che l'hanno avuta come insegnante. Questa premessa per dire cosa? Questo per dire, però il concorso non l'ha passato. Non l'ha passato, ma per dire cosa? Che io sono convinto che i concorsi, così come sono strutturati, non selezionano i migliori insegnanti, non selezionano i migliori medici. Ma Matteo, ma come facciamo allora? Cioè, se i concorsi... La mia soluzione è questa, brevemente. Io penso che bisogna partire da riformulare l'università. Non è ammissibile che tutti possano accedere in maniera libera alla facoltà di lettere, possono starci 10 anni e poi tutti possono partecipare a un concorso. Si fa una selezione, quante persone mi mancano nella scuola? Sì. Benissimo, allora io dall'università è previsto che escano tot insegnanti, ma che non laureino in lettere. E va bene, però io la riforma universitaria posso anche capirla un po' più ampia, Matteo, perché poi dobbiamo cambiare tema. Però Oscar, lo seguo poco, l'ascoltatore, sul dire certo, da supplente è stata una grande risorsa per i suoi allievi e non lo mettiamo in dubbio. Considero paradossale, ma italiano, il fatto che coloro che sono chiamati a valutare i nostri figli nelle scuole rifiutano sempre i criteri con cui essere valutati loro. Si tratti dei test INVALSI, dei test PISA, dei concorsi, eccetera. La reazione generale è: i test sono stupidi, chi ci valuta non è all'altezza, è sbagliato valutarci. Io ho già insegnato, io sono già abilitato. Allora, se chi valuta rifiuta di essere valutato, forse c'è un problema. Comunque, chiudiamo l'argomento con questo. Vivo a Berna da 4 mesi, ci scrive Angela. 7 anni lasciano i bambini fuori dalla porta dell'istituto, tornano tutti a piedi a casa da soli. Cantando. Viva Berna. E a passo. Cantando. Di marcia. Viva! viva Berna, cara Angela. Allora, intanto vogliamo salutare, parlando di Roma, dobbiamo parlare un po' di Roma, le polemiche politiche, è stata una settimana meno da cantare e meno a passo di marcia. Esatto. Abbiamo chiamato uno che godrà di questo momento, lo dico come una battuta, Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico, è stato anche per un certo periodo assessore alla mobilità nell'ultima parte della giunta Marino, nonché uno che non le manda a dire. Esatto. Esposito, lei sta godendo come un riccio, giusto per dirlo, per quello che succede a Roma, oppure no? No, buongiorno intanto. No. Godere sarebbe veramente da matti. Certamente, anzi, se posso dire, pensavo che fossero inadeguati. Non pensavo che la cosa si sarebbe manifestata in un tempo così rapido. Così breve. Ecco, questo. Però... onestamente speravo che scontassero naturalmente un po' di ambientamento, ma che facessero tutto questo casino, sinceramente no. Casino sulle nomine, ovviamente. Ma senta, non è che, perché Oscar lo ha detto settimana scorsa, io sono assolutamente d'accordo, non è che si sta anche un po' esagerando su questa storia, come se fosse, voglio dire, il disastro assoluto. Hanno sbagliato certamente delle nomine, ci sono dei pasticci, ci sono delle correnti come in tutti i partiti, stanno litigando, però forse si sta un po' esagerando nel mettere nel mirino Roma come fallimento del 5 Stelle per dire, vedete, non sono in grado di governare il vero nazionale. No, però mi sembra, con tutto il rispetto naturalmente, un po' semplicistico trattarla solo come una questione di correnti, che già ci sarebbe molto da dire, visto che il Movimento 5 Stelle ha sempre spiegato a tutti che loro erano diversi, che non avevano i vizi dei vecchi partiti, che avevano una coesione e una forza derivante probabilmente dal loro DNA. Intanto già questo di per sé, ma qui siamo di fronte a una situazione peggiore, se mi posso permettere. Da un lato correnti, litigi, però dall'altra c'è un problema serio con uno degli assessori più importanti di quella giunta. Cioè, emerge un quadro. Lasciamo perdere l'avviso di garanzia per reati ambientali, non mi interessa, io sono garantista, però sta emergendo un quadro in cui questo assessore Muraro, nei 12 anni in cui è stata all'AMA, ha dato una mano a Cerroni, il RAS dei rifiuti. Quando è stata mandata via da AMA è diventata consulente di Cerroni, è entrata a fare l'assessore e ha lavorato per far sì che i rifiuti andassero da Cerroni. Cioè, io ho la sensazione che questo sia un problema drammatico, cioè al quale non viene data una risposta, perché i litigi sono figli naturalmente di uno scontro di potere, ma la figura della Muraro è una figura molto opaca, e per un movimento che si è candidato e ha vinto le elezioni con un grande consenso, che è entrata in Campidoglio urlando onestà, onestà, dicendo che avrebbe cambiato tutto, che si sarebbe rotta la dinamica clientelare, e tutto questo iniziano così sul tema dei rifiuti, mi permetto di dire, iniziano senza male, voler iniziano. Far di Roma come del caput mundi, che pure lo è peraltro, la loro prova al momento è deludente, speriamo si diano una sistemata e governino Roma, perché il problema è governarla Roma. Io vorrei fare l'opposizione non su i loro litigi, vorrei fare opposizione su qualcosa che stanno facendo. Sui fatti concreti. Però al momento non li abbiamo visti. Allora, è vero che sono passati meno di 100 giorni, però, insomma, onestamente mi auguro che si riprendano, perché se non si dovessero riprendere c'è un problema serio di affidabilità di questa classe dirigente. Io lo pensavo prima delle elezioni, però i romani hanno scelto e devo rispettarlo il voto dei romani. Speriamo si diano una mossa, però. Sì, qua Oscar, poi se la mettiamo sul fatto delle indagini o degli indagati, ovviamente se andiamo a vedere i vari partiti, e anzi, se andiamo a vedere. Non è quello. Il punto secondo me è che c'è un fenomeno che politicamente io capisco da fuori come osservatore, ne ho viste troppo nella politica italiana per non saperlo, cioè il grande coro, la grande ola dei partiti che hanno distrutto Roma per decenni alternandosi destra e sinistra al governo, che naturalmente confidano che la pessima prova data fino a questo momento da 5 Stelle a Roma è, per così dire, le rinvergini. Questo è ovvio, la politica funziona così e sono tutti pronti a stappare le bottiglie. Io non credo però che i romani ragionino così, vedremo. Io non sono stupito, per esempio, Alessandro, nei sondaggi che stanno deludendo un po' i vecchi partiti, perché nei sondaggi adesso i vecchi partiti si aspettavano cali di 8, 9, 10 punti, cali ci sono, è giusto che ci siano, perché è pessima la prova data fino a questo momento. di consapevolezza, mancanza di consapevolezza e di responsabilità, non sono preparati abbastanza a Roma, però detto questo il calo è contenuto in alcuni punti, non è una specie di rotta generale. Certo. Allora io di questo non sono stupito, anche perché poi, attenzione, il nostro ospite lo sa perché ha anche un'esperienza torinese alle spalle, c'è altrove chi invece si è preparato di più, dà prova di affidabilità, addirittura nel PD accusano Chiamparino di essere troppo aperto alla collaborazione col sindaco Appendino dei 5 Stelle. Appendino. Quindi la prova generale è una prova che diciamo deve a quel punto esaminare tutti i candidati che stanno. No, esatto. No, Esposito, a Torino è la stessa aria, secondo lei? No, guarda, Giannino, no. Tra l'altro mi posso però permettere di dire che l'Appendino ha trovato una città totalmente diversa nelle proprie condizioni di strutturali. Quindi in realtà l'Appendino secondo me sta operando diversamente, ha una squadra che non ha recuperato soggetti dalle vecchie esperienze, non ha un capo di gabinetto come Marra, ne ha uno che invece, seppur proveniente da un'esperienza del Partito Democratico, è una figura, come dire, integrata nel movimento da molto più tempo. Dopodiché l'Appendino fino ad oggi ha fatto una cosa molto semplice, ha parlato pochissimo, ha agito pochissimo perché sta studiando. Nelle ultime settimane ha messo in campo due azioni sulle quali, se si volesse fare una piccola riflessione, la si potrebbe fare, però Torino naturalmente è un pochino più periferica e quindi fa meno notizia. Però Esposito, il punto è com'è che chi ha la responsabilità storica di avere messo Roma in ginocchio parla come se venisse da Marte. No, però Giannino, non ci sono. Io sono uno di quelli che è arrivato in Campidoglio e ha cominciato a dire nomi e cognomi dei responsabili della situazione che ho trovato e non ho fatto sconti neanche al mio partito. È chiaro? Quindi io da questo punto di vista condivido appieno. E quindi ci deve dire come lo ha fatto. Però voi commentatori, Giannino, non potete pretendere che siccome c'è un passato, oggi l'opposizione di fronte a quello che stanno facendo. Politico l'abbiamo pagato di fronte agli elettori. Gli elettori ci hanno mandato a casa e ci hanno detto: sapete cosa dovete fare? Adesso vi fate un po' di opposizione perché avete fatto ma certo, altri. Ma però perché? Perché i Cerroni sono figli dei sistemi dei partiti precedenti. Questo è il punto. Se Roma non ha il ciclo chiuso del trattamento dei rifiuti e 4,5 volte costa rispetto a Tornate di Milano, è la colpa è di chi c'era prima. Questo è il punto. Comunque il tema è aperto. Adesso Esposito, purtroppo dobbiamo andare nel giornale radio, se no sforiamo, ma riprendiamo dopo, parliamo anche di altri temi, tanto andiamo avanti fino alle 9:30. State con noi, I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Siamo reduci da una settimana che ha avuto il suo appuntamento più importante giovedì con la riunione della Banca Centrale Europea, riunione che nella delusione dei mercati si è conclusa con un nulla di fatto, anche se Mario Draghi ha ripetuto più volte che la scadenza del quantitative easing, attualmente a fine marzo 2017, può essere prolungata fino a quando non verrà raggiunto il target dell'inflazione, confermando gli 80 miliardi di euro di acquisti mensili. La Banca Centrale Europea ha anche aggiornato, rivedendole a ribasso, le stime su crescita ed inflazione, e Draghi, proprio annusando che il mercato probabilmente voleva qualcosa in più, ha ribadito che la BCE rimane intenzionata ad agire se necessario. Il quadro di fondo dell'economia rimane incerto, i rischi prevalenti sono in peggioramento, per cui quello che in fondo Draghi ha voluto comunicare è che bisogna avere molta pazienza prima che gli stimoli monetari in corso mostrino effetti tangibili. Le borse continuano comunque ad osservare da vicino l'operato delle banche centrali. I prossimi appuntamenti sono il 15 settembre, quindi questa settimana, con la Banca d'Inghilterra, e il 20 e il 21 settembre con la Banca Centrale Americana. Osservati speciali gli Stati Uniti, con l'economia che ha mostrato di recente un po' di affanno, in particolare dal punto di vista del mercato del lavoro, e la borsa invece che è sempre sui massimi. In settimana l'indice tecnologico Nasdaq ha toccato un nuovo record. Guardando alle storie di Piazza Affari, ripartiamo dal solito turbine attorno alle banche sulla presunta pressione del Tesoro. Lascia Banca Monte dei Paschi l'amministratore delegato Fabrizio Viola. A questo punto sono apertissime le scommesse su chi lo sostituirà. Forse una decisione arriva già entro giovedì, e su quando e come verrà effettuato il necessario aumento di capitale, che a questo punto potrebbe slittare ad inizio 2017. Mentre ormai è dato per definitivo l'iter di aggregazione tra BPM e Banco Popolare, è dato per certo che si completi entro la fine di dicembre, e il nuovo maxi polo bancario nasce a questo punto a gennaio prossimo. Per i temi da monitorare questa settimana, come dicevamo, c'è la riunione della Banca d'Inghilterra, che è la terza terza dopo il referendum su Brexit e la seconda dopo quella di agosto in cui ha tagliato i tassi di interesse. Altro tema importante: i consumi americani monitorati dalle vendite al dettaglio e dall'inflazione, dati che saranno diffusi fra giovedì e venerdì, e in queste due giornate è chiusa anche la borsa cinese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, allora andiamo avanti fino alle 9:30 tutto il mese di settembre, credo. E abbiamo anche Rachele Risaliti qua, no? Io conto no, sul fatto che tu la porti in diretta. Miss Italia. Miss Italia, perché ti piace Miss Italia? Una bella ragazza? Io so che però tu sei sempre in contatto. Mi hanno spiegato che ogni anno le vincitrici di Miss Italia vengono qua, no? Ma no. Era vera questa cosa. Ma forse no. Mi scurbi, però almeno quello. Ecco, sei rimasto colpito che la seconda è una, come si dice, curvy. Ma più che altro vedo che ci sono non dire grassa. Mi guardo bene anche perché curvy. È alta 1,80, quindi non mi metterei mai contro una curvy di 1,80. No, 1,80 insomma, dà l'idea che se mi stenda mi manda lontano 10 metri. Però detto questo, siccome non si capisce cioè non è che c'era il secondo posto assegnato, perché questo sarebbe altrettanto, attenzione Oscar, sta facendo la polemica, no, la polemica, però, attenzione, scusate, siccome da quello che ho capito io può sì. essere, non è che c'era il secondo posto assegnato per così dire per quote, cioè, no, come no, non c'era la curvy come seconda, no, è no. un secondo posto in cui casualmente finisce rappresentato chi molto alto, molto, ha una taglia tale che è fuori dagli standard tradizionali di Miss Italia. Che cosa vorresti? Io mi chiedo se il criterio è come sospetto. Il politicamente corretto e quindi per non deludere nessuno avere un secondo posto per chi è più alto, più largo, più grosso, non c'è nessun problema, però tanto vale dirlo, cioè deve essere una cosa del concorso, altrimenti chi protesta? Sì. Ci sono forte proteste dalla numero 3, dalla famiglia numero 3, che dice no scusate, questo concorso ha degli standard, allora dichiaratelo che ne ha degli altri, allora io, gli standard non sono le misure del seno, fondamento ce l'ha, in realtà gli standard sono abbastanza allora, quelli allora il no? politicamente corretto o si dichiara e ha il fegato di dichiararlo o altrimenti che casualmente si debba credere che c'è ipocrisia. Diciamolo, no. Ipocriti! Ipocritoni. Giustamente, io sono stato anche sfumato, ipocritoni, va bene. Allora, qui, caro Oscar, tutti concentrati sulla scuola, sul fatto che questa preside di Bergamo, poi abbiamo scoperto che non è l'unica. No, perché c'è la norma, la responsabilità della scuola, eccetera, eccetera. Di venire a ritirare i figli alle medie. Alberto ci chiama proprio da Bergamo, buongiorno Alberto. Buongiorno, grazie per aver chiamato. No, grazie a lei. Sì, io volevo solo raccontare l'esperienza del nostro quartiere di Città Bergamo. Il consiglio di istituto ha forzato l'interpretazione di questa norma e ha semplicemente detto che questa norma è obbligatoria per tutti, tranne quelli che abitano nel quartiere. Quindi i genitori che hanno i figli a scuola media nel quartiere, che ha uno sviluppo di 10 minuti a casa, piedi, diciamo così, possono tornare a casa sia in pausa pranzo che alla fine delle lezioni alle 4 del pomeriggio da soli. Gli altri perché no. Quelli da quartiere sì, e gli altri no. Va bene. Quindi è stata molto discussa questa, molto critica. Sì, però pone anche un discrimine. Fosse vero quello che ci ha detto l'ascoltatore di prima, che c'è un problema nella piazza antistante per figuri un po' discutibili che potrebbero rappresentare un problema per i ragazzi nella mensa, allora non farebbe differenza se tu abiti nel quartiere o meno, e adesso lei ci dà un criterio che invece è completamente diverso e che fa capire che non è il rischio di fronte alla piazza della mensa alla Caritas, corretto Alberto? No, è la comodità dei genitori poter voler andare a fare questo, l'accompagnamento che vabbè, a mio parere è doveroso perché un bambino di 14 anni è sempre un bambino e quindi alla fine va accompagnato No, su questo, è un ragazzino Alberto, 14 anni non è un bambino, dai. Su questo, è un ragazzino, su... ancora più pericoloso allora. Vabbè, ma che facciamo? Allora lo controlliamo a 15 anni, a 16, a 18 è maggiorenne, però sale amicizie cattive, l'università, gli Spinelli. Si apre un fronte, sì. Fronte infinito. Un fronte, diciamo, da grande fratello. Va bene. Va bene, no, Alberto, la ringraziamo, dai, che così diamo spazio anche ad altri ascoltatori, sono in tanti. Antonio ci chiama da Milano, per esempio. Buongiorno, Antonio. Buongiorno Milano e buongiorno Giannino, un piacere parlare con voi. Volevo parlare appunto di questo argomento della preside che sta cercando di applicare una legge, giusto? Perché voi vedete appunto che è una legge. Perché se mai dovesse capitare qualcosa, riprendomi appunto all'alcolista di turno piuttosto che al tossico che è lì vicino, mi pare di capire, in quel vecchio convento di Cappuccini, no? Sì. Dovesse capitare qualcosa, noi italiani siamo soltanto bravi dopo a cercare rimedi a quello che è accaduto e andare a fare un linciaggio alla preside piuttosto che a qualche altra persona perché non ha applicato una legge. No, va bene. Appunto... No, io vorrei solo fare una chiosa, Antonio, perché dal commento del nostro ascoltatore adesso abbiamo già trasformato, senza sapere nulla, un convento di frati cappuccini che fanno una cosa probabilmente meritoria in un covo di disgraziati che sono vicini a una scuola, pronti, non i cappuccini, ma i loro... I frequentatori della mensa pronti ad assaltare i ragazzini. Penso, non credo proprio che sia mensa così. Mensa della Caritas, che sono notoriamente il centro della malavita italiana. Però spero che sia chiaro. Sì, era chiaramente ironica. Però Antonio ci pone questa questione. Meglio prevenire piuttosto che poi andare a dire linciamo quelli che hanno fatto. Ma ragazzi, siamo così. Siamo abituati a vivere in queste città dove siamo tutti barricati. Oscar, io mi rifiuto di... pensarla così, però non so, io sono, mi viene da dire, scusate se ve lo dico, che se paragoniamo i livelli di violenza, di omicidi eccetera eccetera degli anni in cui sono cresciuto io, vecchio, cioè 55 anni, con quelli di oggi è molto più sicuro, anche se naturalmente so che molti di voi diranno che non è vero, però i numeri dicono questo. Ecco, eppure, le generazioni, papà e mamma della nostra generazione, probabilmente perché lavoravano anche in maniera molto più rigida, nel senso che all'epoca era molto più improbabile per un operaio poter... probabilmente eravamo in un mondo fordista di regole durissime perché aveva pochi soldi, e quindi i bambini, da mamme molto apprensive anche allora, e non che li abbandonavano per strada al loro destino, però facevano in modo di accertarsi che fin da più piccoli sapessero la strada, andassero dritti eccetera eccetera, e però li facevano andare a casa da soli. Oggi dite che a 14 anni sono bambini. È così. Interroghiamoci su cosa secondo il codice italiano giustamente si può fare a 14 anni. Tantissime cose, gli comprate poi motorini, le moto, vanno in motorino, come ci scrive un ascoltatore, vanno in motorino, responsabilità civile, responsabilità penale, fanno sesso, anche questo, insomma, non sono bambini. Giovanni ci chiama da Como. Giovanni. Non c'è più Giovanni. Allora, vabbè, lo recuperiamo Giovanni. Caro Oscar, però noi qua vogliamo, in questo ultimo stralcio di trasmissione, lanciare anche una sorta di, possiamo dire, provocazione? Provocazione, però è un dato di fatto. Eh sì, perché visto che siamo reduci da mesi di campagna, ce ne occuperemo adesso nei prossimi due mesi, però lo scontro micidiale che c'è nel PD, D'Alema, Renzi, su, per esempio, il referendum costituzionale, ha avuto alle spalle una cosa. Attenzione, perché se votate no si va a votare. Poi Renzi ha cambiato idea. Come se votare fosse la cosa più terribile, l'instabilità, come eccetera. Se il rischio di instabilità, di un governo. C'è gente, devo dire anche Confindustria, ha esagerato nelle stime negative che questo porterebbe per l'economia del paese. Invece riflettiamo, le cavallette, esattamente, le piaghe d'Egitto, punti di PIL, di crescita, che ci siamo a zero col governo, figuratevi un po'. Invece ci sono dei casi su cui riflettere che possono sembrare paradossali. Esatto. Il primo è la Spagna, dove di fatto da 8 mesi, dopo 3 elezioni, no, la terza forse a dicembre, si torna a Natale, non c'è un governo. Eppure cresce il 3%. Il PIL cresce il 3%. Allora, naturalmente, attenzione anche agli ascoltatori, noi non stiamo dicendo governo si cresce il 3%, però l'argomento stabilità o meno tende a farvi dimenticare che quello che conta sono i fondamentali. Lì c'è la spesa, l'hanno tagliata di 4,5 punti, cari amici. Noi no, senza governi comunque si va meglio di chi coi governi non va peggio. Questa è la mia idea, ma magari ci sbagliamo. Sentiamo invece un po' chi ci dice di là. No, esatto. No, tra l'altro il concetto, appunto, come dici tu, non vuol dire, non è un assioma, no. Niente governo, vedete, si cresce. Anche perché molti analisti dicono forse per 8 mesi può andare così, poi le previsioni di crescita magari sono riviste al ribasso se davvero non c'è una stabilità politica. Però tanto ne vogliamo parlare con Thomas Gualtieri, giornalista del País. Buongiorno Thomas, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, intanto il dato di fatto, cioè, perché non c'è un governo? Cosa sta succedendo in questo momento in Spagna a livello politico? Dunque, gli spagnoli dicono che in Spagna quello che sta succedendo è che la politica sia italianizzata, però non ci sono gli italiani per gestirla. Ah, ecco, subito per partire in quarta, insomma, prendere cioè, esempio l'Italia. Il discorso è che fino dal 1977, cioè da quando è tornata la democrazia dopo il franchismo, c'è stato un sistema che sostanzialmente è stato bipolare con due partiti, il Partito Popolare e il Partito Socialista, e adesso dal 20 di dicembre sono nella scena politica, ci sono anche altri due partiti che hanno un peso elettorale, Ciudadanos su un partito di centro-centrodestra e Podemos un partito più a sinistra dei socialisti, che hanno un peso elettorale notevole, che quindi sono indispensabili per formare una coalizione, e il discorso è che non si mettono d'accordo. Quindi banalmente, quindi diciamo, la fine del bipolarismo ha portato ai cittadini, non hanno fatto una scelta chiara premiando una coalizione. C'è da riflettere anche sulle leggi elettorali, è altro tema arroventato in Italia, perché come si vede poi l'idea di un maggioritario in cui comunque sia chiaro chi deve governare, quando il bipartitismo in Italia non c'è mai stato, però abbiamo avuto coalizioni, ma anche dove c'è stato, quando ohimè viene superato dalla storia, questo riguarda sicuramente la Spagna, ma riguarda anche un po' la Germania, poi i paesi vanno in difficoltà, è così? Sì, c'è un discorso, poi appunto anche qui si parla molto del cambio della legge elettorale, perché poi c'è tutto un sistema per ripartire i seggi che lascia abbastanza scontenti e che si creò appunto con condizioni storiche particolari come erano quelle della fine di una dittatura, no? Per cui insomma questo discorso c'è, però adesso poi il fatto è che sono tutti molto prudenti, in particolare in questo momento sono tutti fermi perché il 25 di settembre ci saranno delle elezioni regionali in Galizia e nei Paesi Baschi, e i Paesi Baschi sono una regione chiave. Ma è vero che a seconda del successo delle forze locali potrebbe a quel punto Rajoy e Ciudadanos avere i 6 voti che mancano per farlo il governo e non andare a votare a Natale? Beh, il discorso per cui si guarda con molta attenzione ai Paesi Baschi è perché il Partito Nazionalista Basco ha anche una rappresentanza nell'equivalente della Camera dei Deputati, nel Congresso, e quindi il peso che potrebbe avere a livello regionale poi potrebbe anche riflettersi sulla loro disponibilità o meno nel formare una coalizione. Insomma, i nazionalisti, che sono abbastanza, i baschi sono quelli più di peso, ma poi ce ne sono comunque abbastanza nel Congresso, nella Camera dei Deputati spagnola, poi comunque saranno determinanti per formare governo, per cui c'è un po' questa dichiarazione. Poi anche le elezioni regionali in regioni importanti sono anche poi una maniera poi per diciamo misurare la tenuta nazionale, l'orientamento degli elettori. Io però vorrei chiedere a Thomas Gualtieri questo, perché è vero che non è assodato che senza governo per forza l'economia debba continuare a mantenere un ritmo buono con la crescita del 3%, però abbiamo visto anche in Belgio, il Belgio è stato 2 anni senza un governo e tutti guardavano al Belgio a dire: ma vedete che insomma si può stare anche senza un governo, addirittura andava meglio di quando c'era, esatto, il governo. E non è che le persone sono disorientate per strada perché non c'è un esecutivo, è davvero così? Cioè, che cosa pensano gli spagnoli di questa situazione di incertezza? Sono preoccupati per la mancanza di un esecutivo, oppure hanno l'idea molti che si possa fare anche senza? Dunque, per quanto riguarda le previsioni di crescita per gli anni che vieni, per gli anni che verranno, diciamo che gli unici ottimisti sono i membri del governo, perché poi il Banco de España, il BBVA, che è il centro studio del BBVA, che è la seconda banca spagnola, anche Moody's, bueno, che non sono spagnoli, ma che in ogni caso, voglio dire, hanno degli occhi vigili sulla Spagna, dicono che poi in realtà è un'inerzia quella del 2016 e che poi nel 2017 diciamo arriverà una crescita molto più bassa. Per quanto riguarda i cittadini, diciamo il problema è che la crescita spagnola andrebbe vista, insomma, è una crescita economica che che ha così di chiaroscuro, i contratti a tempo determinato sono tantissimi, il turismo è stato una variabile importantissima, perché comunque, come sappiamo, diciamo, con Maghreb, Turchia e Francia fuori gioco, c'è stata un'esplosione del turismo soli playa, come lo chiamano loro, cioè della gente che va in spiaggia, e questo ha portato con sé una forte crescita dell'impiego, però un impiego legato alla stagione, all'alta stagione. Dopodiché c'è molta gente che ha lavorato quest'estate e che poi dopo tornerà a casa. Insomma, no, ma io capisco, tutto questo, però devi capire che positivo fino a un certo punto. Ho capito, però devi capire che chi sta a crescita congiunturale zero, come è tornato all'Italia nel secondo trimestre, e vedrai che nel terzo più o meno siamo lì, è chiaro, per quanto sia conto i fattori congiunturali, il turismo eccetera eccetera, certo il 3% noi ce lo segniamo col binocolo, quindi sì, con tutti i chiaroscuri, certo, che ha. Però ecco, vedi Oscar, cioè, anche gli ascoltatori dicono, ci citano il Belgio, è stato tre anni in realtà, due sì, anni senza governare, e andava molto bene, cioè c'è questo pericoloso rischio di dire, ma guardate che è meglio a questo punto non avere un governo, purché non ci sia un governo che faccia danni. Dipende quali sono le impostazioni lasciate dall'ultimo governo. L'ultimo governo contestato in Spagna, perché appunto ha cambiato il mercato del lavoro, ha aumentato i contratti a tempo indeterminato, cioè flessibilità, però ha tagliato la spesa, questo è il punto, e quindi l'inerzia è positiva. Non lo so cosa avrebbe in Italia, ecco, perché l'inerzia è rappresentata dal fatto che qui la spesa non l'abbiamo tagliata. Abbiamo avuto la polemica la scorsa settimana tra Gutken e Perotti, oggi ci torna Fubini, e devi ammettere anche Fubini sul Corriere della Sera, che pure è molto vicino al governo, che sì, in effetti la nostra spesa è 51%, in Spagna è a 44%, c'è una certa differenza in termini di margine fiscale per le imprese. Però secondo me, ecco, questa, a seconda di chi è l'ultimo, l'inerzia è diversa. Questo sì. Comunque, Thomas Gualtieri, vedremo che succederà. Può darsi invece che si vada a votare nuovamente a Natale, dicembre. Ma veramente a Natale. Ma dai, regalo il 25 dicembre. Ma come il 25? Sì, è questo il punto. Ma no, dai. Si va a votare per la terza volta il giorno di Natale. Ma perché il giorno di Natale? Perché ci sono dei meccanismi costituzionali che prevedono, che insomma permettono di calcolare i tempi in maniera molto precisa, e quindi... Ho capito, ma fatelo il 23, ho capito, ma perché uno il giorno di Natale? Ma poi per forza che non c'è governo, ma se no, mi dicessero il giorno di Natale di andare a votare... Ma devi cogliere il punto, la terza elezione anticipata, si spera nel miracolo, ci pensi dall'alto qualcuno. Ma c'è un astensionismo dell'80% se si vota a Natale, ma dai. Ma no, ma dai, figurati, la Spagna... Ma a Natale, Oscar, il giorno, io pensavo sotto Natale, il giorno di Natale è il giorno preciso, avevi capito? Si vogliono male questi spagnoli. Ma del resto, scusami, è un paese dopo Zapatero laico, eccetera, eccetera. Cosa che sia il Natale, una coincidenza. Va bene, intanto Thomas Gualtieri, noi ti ringraziamo, giornalista del Paese, grazie. Ovviamente torneremo a capire che succede qua. Pensa si votasse in Italia il giorno di Natale. Tanto Giovanni da Como l'abbiamo recuperato. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, dica. Oh, buongiorno, piacere sempre parlare con voi, sentirvi per radio. No, io volevo raccontare un po' la mia storia, no? Sono docente nei conservatori di musica italiana. Sì. L'ultimo concorso fu bandito nel 90, no? Sì. E fu anche un concorso veramente serio e duro, difficile. È durato 4 anni con 7 prove. Adesso non sono riuscito a superarlo, sono arrivato in fondo e mi sono ritrovato persone bocciate in cattedra davanti a me. Ecco. A causa dei sindacati, e non contenti di questo, dopo un po' di anni hanno rifatto per questi bocciati un concorso esclusivo per loro, ridicolo al confronto, ridicolo, per rimettere in ruolo. Ecco, questo sono i sindacati. Io ringrazio Giovanni, perché fa capire che non c'è solo chi pensa che i concorsi siano sbagliati, che non bisogna farli, che bisogna andare solo per anzianità e abilitazione, eccetera eccetera. Ci sono testimonianze di persone come Giovanni che raccontano una storia un po' diversa. Esatto, c'è anche Fulvio da Cuneo, con lui concludiamo la puntata di oggi. Fulvio, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Benissimo, io saluto Giannino, che ha anche sostenuto politicamente tanti anni fa. Solidarietà e grazie. Punto di riferimento. Io telefono da Savigliano e intervengo cortesemente sulla questione della preside. Ma bisogna ricreare, secondo me, un senso di comunità. Noi come amministratori, io sono stato amministratore al Comune di Savigliano, abbiamo sviluppato un progetto proprio per mettere i bambini nella condizione di entrare e uscire in piena serenità e tranquillità, coinvolgendo i nonni vigili, operando tutta una serie di interventi sulle zone 30 e coinvolgendo le famiglie e i cittadini proprio per mettere nella condizione di sicurezza i bambini quando entrano o escono da scuola. Fare in modo che i bambini non abbiano responsabilità presuppone che non ci sia più il senso di educazione civica che invece gente come me che ha 56 anni deve promuovere, deve cercare di recuperare. Fulvio, la ringrazio. Preferisco questa impostazione. Allora, noi ci fermiamo qui per oggi, ma domani puntuali ritorniamo. E soprattutto tutti in chiesa a pregare Sant'Autonomo. Sant'Autonomo, giusto. Ciao, a domani. Ciao, a domani.